inglesi sul microfono, capito? Dove c'è scritto in comienzo che è voluto. Tu lo stesso carattere lo posizioni nell'ingresso che vuoi. Mi capisci? Il microfono lo puoi usare con tre radio diverse, in comienzo che è voluto. Buon apparato, adesso vediamo quando lo dà a Sandro, vediamo un po' da produttore se lo esce, ma dovrebbe essere tutto a capo, dai. Oh, Anto, dimmi. Miau. E Tullio, Tullio, miau. Ciao, oh, giornata, cucina, ui, coro mio. E infatti niente, adesso sta in cucina e nelle camere non possono più. Come mai non li ha mai toccato, non ha mai fatto niente di queste cose? Come mai? Allora io che non siamo con la potenza. Perfetto. Quello costa un compito di valore del genere, ti costa sui 250 euro e non so scherzo. Meglio gli uni. Miau. Allora, oggi cada fuori. Quelli notturni, ok. Ma lo vedo mi fuori, già notti no. No, no, no, fuori no, già la porta del terrazzo aperta, già la cucina, lui dorme tra la cucina e diciamo il terrazzo. E non posso tenerlo a guardarlo, non va bene. Non infatti, no, lui ha detto cosa non infatti. No. L'ha fatta all'inizio, lo sì. Quando inquadresa, lo si guardo, inquadri lui, ha comprato mamma. Però adesso non fa più niente. Allora, l'unica cosa che fa, che era un po' pavettata, sai cosa è? Mi dico, ma lo scotte, c'è mamma. Sotto il letto vuole fare un casino vero, poi il resto niente, non si mangia niente. Meglio così. Ma io non posso stare a dirlo, perché a me picchiano come qua, lo punisco così e basta, purtroppo è così. E più va bene, guarda. Che Luca, io non posso stare con parenti e due facendo, lui c'ha i suoi giochi. Come mai non si è preso sui giochi? Punto di domanda. Vengo. Sta una cosa un po' difficile. Cioè, rispondi, comunque i cani sono maledetti. Sono molto rispettosi e via. Vabbè, comunque. Se lo vogliamo, no? Poi me l'ha fatto danno lo stesso. Positiva, lui c'ha la sua cuccia, c'ha la sua copertina, va a prendere e già si copre, non è stupido, già se ne va sotto e già si copre, poi prende, non ce n'è in cucina, non ce n'è in prendo, e così è, e basta, e purtroppo è da fatto danno e da oggi per la parte di su di cui non la sento che deve essere a comandamento. Ti chiama Tullio? Tullio. Un nome di un essere umano. La differenza è che lui ha le quattro zampe. Luna è un nome di un cristiano, mi. Sì, il nome si chiama Luna. Sì. E Luna è un nome di cristiano, ma te. Ti confermo. Anche a Paroci. È casino, la prossima volta che penso che l'applicare non è presa, ma comunque mai dire mai. Lo chiamo Claudio. O Claudio o Salviero, se qua c'è il massimo. Spalviero con L. Lo dicevo Spaliero. Spaliero. Non c'è mai Spalletti. Spaliero. A Parogio. E comunque bisogna imparare l'educazione anche a loro, anche se sono animali, però bisogna imparare l'educazione. Bisogna imparare come vivere. Infatti, diciamo che l'animale, il cane soprattutto, è molto intelligente, ma molto. Lo sa lui che sia, cosa sta facendo, poi si rende conto che è sbagliato. Vai tranquillo. Comunque sono meno dei cristiani. Sì, su quell'altro lì dico che avete ragione, che lui ha abbassato le orecchie, si è tutto accucciato per te, sempre mangiare che aveva sbagliato, capito? Io ho detto cosa hai fatto tu? Lui subito si si è abbassato per terra, abbassato le orecchie, come per dire, Carta, cosa ha fatto? Io stavo solo giocando, ma hai giocato male però. Poi la mia c'è giornale, no? Siamo stavolte che non esce, tipo è stato meglio di male. Sono uscito a veloce da sola, non fa, perché come attraversa passano le macchine, mi ammazzano. Allora, quando fa a casa, la fa sul giornale, cosa hai fatto? Vieni qua, cosa hai fatto? Allora lì sa già che ha fatto quello che doveva fare. Sì, sì, ma anche il mio è così. Il mio fino da quando ero a Cuccio ne mettevo il giornale, non ha mai sporcato in casa, mai. Sul giornale sì, ma fuori no. Adesso talmente ero abituato a portarlo fuori la mattina, no? Durante la sera, quando io sono libero, che lo porto io, lo porto mia moglie. Però per dirti, lui non... Anzi, adesso non sta più sporcando addirittura neanche nei giornali, capito? Sì, vabbè, comunque lo stesso, la mia no. L'altra volta, la verità, forse è di gioco, ma la fatta, ma caga poco, perché, come le pecore caga. Cosa, non caga, non fa niente, fa poco e niente. Comunque l'ha fatta in terra, poi si rilassa, non ha più fatto, più. Infatti ogni tanto sgara con la pipì, però vabbè, la devo fa. Purtroppo è un casino. Il cane è un casino in casa. Infatti non è mai dandy, non è mai a cucchendi, è da. Sì, sì, sì, no, ma molto molto lo fa perché è allegra, capito? Anche il mio quando è allegro, io rientro per dire, gli scappa, ma non proprio pipì, gli scappa, giusto perché è allegro, capito? Ah, no, la mia no, assolutamente no. Su quello no. Vabbè, a cucchendi si premurendi, a chiusarlo. Che non voglio, non voglio, non devi fare le cose come le deve fare. No, capisco io. Dai, un attimo di Quarix per me dopo la chiamata al telefono. Cappa, fai un comodo, magari. Ispettore! Ehi, ma un massaggio! Fai un massaggio! Vai, non lo so, più lungo, vai! Yeah. sentito, perfetto, la radio è abbastanza comprensiva, buona, buona, buona, buona, buona. Thank you. beh, quello sì. non è più quella di una cosa e ho dovuto ricorrere per di grappa, le senti la polpa un po' più. Ma un po' perché devi stare a matarti la testa? E dici di mandarti l'alunno esame 508 con il connettore per la radio Incom. Vedrai anche la marca della radio, ma le connessioni Incom sono tutte uguali. Pensavo che, siccome quel crimelino è un pochino molto delicato, centro, e il microfono sul tavolo, abbiamo spostato gli altri e il microfono sul tavolo, e quindi adesso c'è un po' più di posto. Ok, comunque va molto bene. Cos'è questo rumore che fa? Entra sempre in funzione la ventola, io non ho capito perché, comunque evidentemente quando supera diciamo un tot dove comincia a lavorare supera la ventola. Infatti c'è per caso sopra c'è appena di silicone dove l'avevo comprata e ho tuttora una ventolina da 12 volt e l'avevo messa su, poi l'avevo tolta per così, giusto per aiutarlo a raffreddare un po'. Ma non esiste, non c'è problema Sandro, non c'è problema perché è l'unica radio in assoluto che ha il dissipatore largo. Se tu guardi il 440 c'è la 3 e poi ne ha un pezzo perché la ventola è all'interno. Il 757 ha il dissipatore largo proprio per far sì che non scaldi come sembra, come ti sembra, scalda normalmente, poi dissipando l'aria sopra esternamente fa sì che a contatto con la gradazione interna parte la ventola in automatico, ma è un lavoro fatto bene. Non so macchi, chi progetta queste cose va alla grande, non ti preoccupare. Ok, avanti Gianni Capridura. Sì. pare che non agganciava. Lo tolgo, perché evidentemente non basta, vuole leggermente in più. Va bene. Diciamo che quello lì l'avevo preso dalla Negrini, quel microfono lì, e con spese di spedizione, diciamo, è tutto, mi era venuto, adesso se vai sul sito costa 95, con spese diciamo mi sembra che quella gruppo 100, 105, una cosa del genere. Fare il passo più grande della gamba e diciamo, sempre una cosa proporzionata. C'è chi ha passione, c'è chi vuole e così via, in proporzione, diciamo, alle possibilità. Tutto lì, va bene. Claudio, adesso ti sto ascoltando in cuffie stereo e guarda, benissimo. Va bene la modulazione? Sì, ho messo le cuffie un attimino, mentre che voi state parlando sto un attimino chiarificando e così via. Ho delle cuffie in stereo, guarda, benissimo, limpida, proprio bella, penetrante, è tutto lì. Non c'è problema, i lavori vanno fatti bene. No, no, come ti dicevo, la cosa che mi ha dato un po' mattana il sudrimerino proprio dello spostamento dell'oscillatore, diciamo, dell'RC, che è talmente piccolo che mi sono dovuto mettere gli occhiali a mia moglie, però per il resto tutto a posto. Viaggio alla grande, tutto in positivo, è perfetto, non c'è nessun problema. Anche il microfono, le relazioni che abbiamo fatto assieme sono buone e quindi tutto ok. Ok, va benissimo, avanti Gianni. Come si fa una famiglia, però adesso ci va a casa. cosa, a trovare la forza, che ha vinto 100 chilometri, quindi si è andato a provare, perché abitava nello stesso Buttiaca mia madre, che era a casa del discorso, capita tornate in vito che ne lo vive qua qui, niente, però la passione della radio è tantissima, perché forse mi porta indietro nel tempo, di tutte le cose che sono state fatte all'epoca, di tutti i ricordi degli amici conosciuti, delle amiche, di tutte le persone che abbiamo avuto, anche in modo di di pregiudicarci occasionalmente, così ecco, tutte le antenne qui, io sono qui, piacere là, tutte queste cose sono dei miei ricordi, però la passione è tantissima, io non credevo mai che per aver visto un amico che ci aveva il baracchino in macchina dello zio, mi portasse, che mi fosse trascinasse in tutta quella storia, esatto. Ok, naturalmente, allora siamo quasi simili. Siamo quasi simili, dai, ho capito. Ma io ti posso dire che ho incominciato, ho finito le scuole, ho cominciato a girare. Dall'età di 17 anni ho preso la nave e via. E ho cominciato a girare fino a un paio di anni fa. Poi mi sono stabilizzato, forse l'età, non lo so, stabilizzato, grazie a Dio, grossi vizi, niente, l'unico vizio maggiore magari che è la sigaretta, fino adesso, poi casa, lavoro, cioè uscire e buttarmi dentro un bar negativo, assolutamente, mi scuccio. Capita qualche volta, magari, con l'amico, un caffè, ma non più di tanto, perché non lo sopporto. Finisco a casa, un po' al computer, ti aggiorni, un po' l'apparato, insomma, ti fai la tossica della fine, E poi lavoro, diciamo, questo è il modo della nostra vita. Ormai, diciamo, la gente, adesso non è per giudicare, per criticare che cosa, la gente ormai è cambiata, la gente la vede in un altro modo, la gente è totalmente diversa, non è come 20-30 anni fa, totalmente diversa. E quindi insomma adesso magari forse abbiamo passato la primanza, come si dice, e ci stiamo rilassando, capito? E tutto, una vita tranquilla, serena, e si va avanti. Io che da noi, tu pertanto, forse sei, uscito a posto a me con la stessa passione, però secondo me ha rovinato tutto, la precedente estate, da quando c'è stato internet, la gente scatta sul computer, capite, ha abbandonato la frequenza. Io ho detto sempre che non è la stessa cosa, la radio è la radio, non c'è niente, io ce l'ho il computer, c'è internet, non mi permetto di scattare perché non mi interessano, perché le persone, io ammiro le persone, amo il prossimo, tutto quello che vuoi, però le persone me le so anche scegliere, non devo contrastare che non devo avere nessuna relazione di dialogo e però internet, diciamo che ha avuto, diciamo, il modo anche di cancellare un po' la pensione che lui stiamo tentando, Claudio sta tentando di rilasciare come io, adesso appena mi posso muovere o contatterò i miei amici che sono ancora, che stanno la mia età, molto appassionati, che magari per qualche cosa, così come ho fatto io, che era la stazione lì, non modulavo, anche la Romani, non hanno più rispolverata, però sono convinto che la palatina li hanno, e se uno lo sa come, siamo già come una sveglia, ed è una cosa riprende a continuare. Claudio, sei rientrato? Claudio evidentemente ancora ancora no, ok, sì, ma è così, ma è così, soltanto diciamo che c'è stata l'evoluzione, il computer, cioè è una cosa buona, perché è una cosa buona, perché se ti vuoi informare, io per dire, delle volte quando voglio andare a vedere qualcosa, informarmi, a vedere o così via, vado, accendo il computer, dico, ma non più di tanto, l'unica per la posta elettronica e basta, poi per il resto il computer le cose, ma diciamo che al giorno d'oggi la maggior parte della gente, tutti in casa hanno un computer, o per giocarci, o per documentarsi, cioè tutto questo, quindi è totalmente diverso. Io mi ricordo, saranno 10 anni fa, forse 15 anni fa, con un carissimo amico stesso, Salvatore Torres, Francesco, magari l'avrai anche sentito, adesso di nome nativo non mi ricordo, addirittura una volta avevamo fatto una pazzia, avevamo preso un'antenna diciamo da tetto, non mi ricordo se era la Grand Play o che cos'era. Avevamo preso un gruppo elettrogeno piccolo, un apparato diciamo normale così via, e siamo andati su in punta, non so se ce l'hai presente, lì dalla chiesetta di che c'è a Usilo, e da lì guarda abbiamo passato una giornata a parlare col baracchino, a fare di ex, abbiamo cucinato, mangiato, ma guarda, un divertimento allucinante. prima cosa, quando te la volevi comprare, te la sudavi, arrivava con soddisfazione, la tenevi con cura, diciamo, e così via. E adesso no, adesso è diverso, adesso oggi ti vuoi comprare un cellulare nuovo, ma non c'è problema. Mi faccio la finanziaria di 20 euro, 30 euro, 50 euro al mese, esco, non me lo compro, capito? Invece, allora no, tutto diverso. Tutta una cosa, infatti io l'apparato ce l'avevo sempre dentro l'armadio. L'ho ripreso, diciamo, adesso erano anni che non entravo sulla 27. Adesso un mese da questa parte, diciamo, ho detto, ma sì, va. Accendiamo di nuovo a togliere un po' di polvere a vedere un attimino chi c'è nella 26. Però per dirti, era sempre nell'armadio, la passione è rimasta, diciamo, e così via. Molto bene. Vediamo un po' se c'è Claudio. Claudio? Ci sono, vi sto ascoltando, non c'è problema, sono qua. Allora. Il sentato lo conoscerai, Francesco Boeso, te lo ricordi? Francesco TM, siamo visti anche da poco. Bravo, Francesco TM, ecco. Mi stavo dicendo che lì avevamo fatto una partita una volta. Allora mi ricordo che facevamo delle gare ciclistiche, diciamo, con le autore eravamo noi, con la 27, il baracchino, con le macchine. Una volta eravamo andati lì, proprio sulla punta di Usilo, su quella chiesetta lì che c'è. Ma guarda, allucinante. A Santa Vittoria. Ottima zona quella, ottima zona. Beh, con Francesco già lo so, facevamo grandi nottate di fuoco. A volte ci attaccavamo anche come cani perché eravamo vicini, splatter, colpi, poi io a quei tempi ero un po' più pazzo e quindi con Francesco ne abbiamo combinato. Ci siamo visti da poco a Porto Torres, adesso non mi ricordo, in un ufficio o qualcosa del genere, però non mi ricordo dove. Ma ottimo personaggio anche lui, dei grandi tempi nostri. Ok, avanti Gianni. I tempi sono cambiati. sono cambiati completamente, non è prima come allora. Allora, come stavo dicendo a Gianni, era molto più diverso, era tutta un'altra cosa. Oggi, non lo so, forse è troppo. Adesso oggi si dice che c'è la povertà, ma io non penso che sia povertà, perché grazie a Dio tutti, bene o male, diciamo, tirano avanti. Diciamo, c'è chi di questi periodi soffre, c'è chi ne risente, questo sì. Però non siamo più ai tempi. Io mi ricordo da ragazzino che mamma durante la settimana, per dire, faceva il minestrone, la pasta, la carne c'era soltanto la domenica, per dire, ma perché? Non per farla durante la settimana, ma perché, diciamo, la vita era più dura, era diverso, dai, era tutta un'altra cosa, no? Non ce la fare. Addirittura, tornando al tempo, diciamo, di quel trapasso che facevo lì col cantiere, una notte, perché logicamente la roba di farsi sentire, presente il filo sul cemento lì, nell'impianto di bettumaccio, ho preso un palo di palo innocente, ho messo l'antenna lì, agganciata lì al traliccio là. Guarda, Gianni, cose allucinanti, va. Ma però, un po' di fare, non mi ricordo, ma ho fatto un po' di lavoro, con un po' di lavoro, con un po' di Mamma mia. detto di andare a Cipracco, io sono andato e l'ho chiamato signor Cipracco. Come ti coso attualmente di Giancarlo Brucia e Coglio. Giancarlo Brucia e Coglio quando vede la Buttiglione in via Torre Sciacchi è andato la stessa cosa, che la mamma l'aveva detto di andare alla Buttiglione a comprare un goccio, è entrato e ha detto c'è un Buttiglione, ma lì se mi racconta bene il coso che c'aveva nel bancone, se non si sposta lo prende a testa e c'è il bideccio, quello c'era mezzo pazzo. Quello non pensava, quello era già era di suo, diciamo, un po', magari un po' l'atteggiamento un po' più particolare. Per carità, guarda, no, lui ha... Allora, un altro particolare, ti ricordi quella Fontana Vecchia? Allora, non so se tu te lo ricordi, ma te lo ricorderesti, tanto quando c'erano la Fontana Vecchia, che diciamo tutti andavano a lavare lì, c'erano le barche dove si andava a lavare tutto quanto. E io mi ricordo che allora abitavo lì in Montangelo, in via Canepas, vedi, è proprio lì sotto. E noi andavamo lì, ci imboschevamo per vedere, c'erano le donne come si inchinava, c'aveva qualcuno, c'aveva la gonna più corta e quindi si vedeva un po' le cosce, no? E un giorno, diciamo, è arrivata questa signora, mi ha riconosciuto, vada a casa tua, le dico mamma tua, le vostre pulini, brutto bucaccione. Cazzo, un giorno arriva a casa, cazzo, una sussa pompa, una pompa. Guarda, è passata anche a me, però vedi, ci divertivamo, tutto lì, vai già. Io ho un po' di infanzia, però che non si dimentica, no? Se ce l'hanno qua passata, io classe, mi dicono quanto avanti, non mi dà momento, però le cose passate me le ricordo, perché lo per segno, forse perché rimangono dentro, non lo so. Sono cose belle, sono anche, diciamo, adesso quello che stavo dicendo tu, tante le cose in più, non anche lo fa perdere di sopra, senza magia e cose con più. E poi peraltro, capito, quando ti racconto con il tuo compagno, ti ho sempre per comare, c'è un meccanico che mio padre, venuto a Porto Torre e ha fatto la gioventù a Porto Torre, lavorava Nicola Torre nel ferrovie e a Porto Torre ne avevo già 25 o 26 anni e avevo un sacco di amici negli anni, ti sto parlando 52 fino al 57. Minchia, quegli anni erano di piombo, quegli anni erano di piombo. No, ma è l'infanzia nostra, quella che noi abbiamo vissuto con Sandro Porto Torres, era una vera cioffa, perché in quegli anni ci divertivamo così come non come adesso, ci divertivamo con niente, capito? Con niente. Ci divertivamo con niente, anche con le ragazze, per dire, si giocava diversamente di come si gioca adesso, no? Con la malavita organizzata, con la droga, con lo stupro e chi ne ha più ne metta. Noi invece stavamo sempre nel chi va là, però abbiamo passato perlomeno, una buona infanzia e soprattutto non siamo mai caduti in tranelli di quelli pericolosi. Servente Mala era sempre dopo di noi, veniva dopo di noi. Noi eravamo sempre persone che ci divertivamo un poco e che sapevamo sfruttare la giornata come venivano, non c'erano problemi. Ed erano tempi lunghi perché si giocava anche scarti a volte, perché le scarpe erano quelle per metterti la domenica e se te le sporcavi o te le rompevi erano colpi grossi, ma colpi forti. E quindi per non incorrere a queste cose a volte giocavamo anche scarti. Talmente già, Donia Gurrida in via delle Vigne a Ricusa, via, via. Scalzi, pantaloni tutti bucati, strappati, cioè non c'era, diciamo, desiderio di avere, diciamo, il pantalone firmato, le scarpe Nike, Reebok, nulla, al naturale proprio, e ci si divertiva con niente, diciamo. Infatti se qualche marachella la facevi, diciamo così, bonariamente, non ingenuamente, perché diciamo non è che andava a far del male o che cosa, quindi altri tempi. Tutto, oggi con tutta l'evoluzione, con tutta l'informazione, tutto il coso, oggi c'è da aver paura, perché i giovani non si sa più che cosa vogliano, perché hanno tutto, e quindi è un casotto, famiglie in difficoltà, per figli che hanno preso vie traverse, che fanno sacrifici, che tentano di raddrizzarsi, e poi per che cosa? Per niente. Per un piccolo divertimento, magari uscire il troppo, e tutto quanto, e vabbè, purtroppo si va avanti. Signori, mi approfitto per salutarvi, ci sentiamo tutte alle prossime. Dai, riprendi Gianni. Come c'è anche la tastiera, però diciamo che non è affollato il dito Roberto. No, Roberto, lascia stare, sta preparando l'esame. Sta preparando l'esame, la prossima settimana c'è l'esame, Roberto, quindi è meglio che continui a fare quello che sta facendo, ci vediamo spesso, ma è tu che ci ascolta. Quando a due minuti entrano, Antonio Falchetto era qua, aveva tanta gente, quindi si è allontanato, ma ha detto che non rientrava, ci sentivamo domani. Luca di nuovo mal di testa. Io oggi diciamo che ho fatto un po' meno di ieri e quindi mi sono dedicato, io quando non sono stanco sto in radio, ma quando sono stanco non ce la faccio a seguire il QSO. Non ce la faccio a rispondere, quindi per dire coglionate preferisco stare in silenzio già. Questo è il mio motto di fare radio. Uno può fare radio quando c'ha la testa che non va bene, tutto lì. Capito? Comunque, il microfono l'hai sentito, il lavoro che ho fatto a sta radio l'hai sentita. A me piace lavorare su questa radio, una passione che ho da tantissimi anni. Diciamo che mi ha inserito Carlo nel fare alcune cosette come queste aperture, queste modifiche che si fanno a queste radio. Altro non è che altro non faccio, diciamo, faccio solo quello che è di mia competenza a fare, non mi piace pasticciare le radio di nessuno e soprattutto le mie. No, ma per non sapere quello che faccio alla grande, ma è che io qualche collezione che faccio, così posso fare qualche attacco, qualche collezione, qualche primi apparati della tipica mia bulbinari, andavano alla grande, c'era il collezionatore modulato e ce l'ho ancora, però il garage ha fatto, diciamo, la sua parte, perché lì l'inverno che non è che c'è uno, c'è freddo la serrata e lo fa far volare ad andare a farsi benedire, quindi che andrà a vedere il tarabbo, mettiamo appunto che deve scappare un po' di roba di più. E niente, però non posso andare oltre perché non ho tutti questi studi, metto la roba a valvole e cambiamo tutto così per far tirare avanti il baracchino, ma non è che toccherà, hai capito, che erano quei soliti tre fasce allora che si andava e poteva costruire qualche quartiere esterna, il fondamentale, tutto lì, però non credo, non so, molte condizioni tecniche da fare altre cose come le fanno gli altri. No, quelle poche cose che servono per far sì che non devi chiedere niente a nessuno, ecco, non è che anche a mettere il petto e me le so fare, prima l'ho fatto vedere, quindi queste cosettine me le faccio io, queste modifiche come quella di Sandro, che l'apertura dell'LC sai, sempre un HF, è tutto a schede, tutto, quindi devi stare attento a non sbagliare, ma con il manuale in mano riesco a farlo, così a occhio non si fa niente. Sono contento che almeno Sandro c'è una radio un po' più piccola dell'altra e quindi se magari le serve per portare da qualche parte è tutto ok, non c'è problema. E poi sto microfono, ti ripeto, è validissimo, per me è validissimo, sono sempre con le cuffie, lo sto tenendo sotto controllo anche quello e ti posso dire che va molto bene. Adesso faccio un'altra cosa, metto il monitor audio, perché io ho il monitor audio sull'altra e mi tolgo queste cuffie perché mi stanno anche dando fastidio e così faccio monitor direttamente, ecco qua, faccio monitor direttamente mentre parlo senza che tu mi senti. Modulando il tratto, diciamo che c'è un po' di scatto più strano, più strano, diventato bene, ma secondo me l'ha strappalato, non so se è rimasto molto fermo, e sta rendendo bene, insomma. Io funzio questo modulando, funzio questo ragazzo con l'accordatore, come dire, insomma, parte dentro il rosso, dentro quel quinto, alla mia destra, e invece il vittore della Iaesu, l'altro l'alginato del classico l'ho messo nella vetrina del venditore, spero che Raffaele un domani muori il ricevitore, così mi faccio la linea, perché ne sono entusiasta di avere quel ricevitore, ma cosa pensi che lo dia? Avendo modo così frequentare, diciamo, per dire a Sandro e a Antonio e siete sempre, hai capito, come fratelli per me. È stato un piacere anche io ogni mattina, non lo annessi, però diciamo sarà ogni volta anche io, perché è il mio figlio dello scuola, appunto, che vuoi sapere le cose e devo fare il tiro anche io. E la giornata finisce domani alle 4:30. Anche se non faccio, meno lavori come lo fai tu, però sempre un lavoro di responsabilità, anche quello che bisogna essere con gli occhi aperti. Di nuovo Ucra, saluto il tuo cuore a familiare, un abbraccio e domani sera ci troviamo qui, sempre permettendo che Dio ci la mandi buona, capito? Perché non faccio le previsioni, però è sempre un piacere. E quando rientro a tenere l'apparato e trovarci tutti assieme, ok, di nuovo Cla, buonanotte. Ciao Gianni, il piacere è sempre mio, non tutti la pensano come te, comunque mi fa piacere che tu la pensi a modo tuo. Ciao, buonanotte. Il lavoro è lavoro Gianni, poi ognuno ha le sue responsabilità chiaramente, le sue cose da gestire, però il lavoro